Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Alino, il primo debosciato sei tu! Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Raga, ricominciamo l'eco. Inizio da addizione. 12, 13, 14, guardate laggiù i topi. 14, 15, 15, 16, no. 16 topi, ragazzi. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. Però a Piazza San Pietro i topi non se ne sono visti. Devo essere poco religiosi i topi romani. Cosa dovremmo fare con quei topi, secondo voi? Secondo gli animalisti dovremmo accomodarli nel nostro letto. Noi abbiamo fatto un concorso, voi vedo fotografico, si è lanciato un concorso fotografico. Da alcuni mesi sono arrivati centinaia di foto di topi e premeremo il topo più grande. Ormai sei di compagnia. E tu cammini, ecco, nella piazza, li vedi che ti camminano davanti. E anche altri animaletti, sono vagarozzi, questi animaletti tutti colorati, non lo so. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get. I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 11 anni, o 10 anni, non mi ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario, allora, ogni tanto attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta uno, un seminarista, ha fatto gol con un topo. Ho un sogno. Ho un grande sogno. Mi si è materializzato in questo momento. Vorrei intervistare il seminarista che ha fatto gol nel 7 con un topone. Così dice Don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria. Una volta un seminarista, vogliamo risentirlo, con un topone grande che passava il campo ha fatto gol! I topi di Roma sono molto grossi, io lo so perché sono stato a Roma 11 anni, o 10 anni, non mi ricordo più. Mi ricordo che nel cortile del nostro seminario, allora, ogni tanto attraversava il campo di calcio qualche topo enorme, talmente grosso che una volta uno, un seminarista, ha fatto gol con un topo. Così di collo destro, pam! Del 7, col portiere immobile, pam! Palo interno e gol! Ah, quanto vorrei intervistare quel seminarista per raccontarci se ha segnato di collo esterno, se con una maledetta la Pirlo. Chissà. Sì, i topi. Pare che sono comparsi i topi. A Roma i topi ci sono da un po', anche se non sono molto religiosi, visto che a San Pietro non ci sono. Fa notare sempre Livio Fanzaga con un doppio triplo senso, eh. A San Pietro non ci sono topi, eh. E va bene, alle 6:35 minuti così iniziamo a parlare di topi, baccarozzi, amici nostri. E insomma, non possiamo non avere oggi ospite con noi Carla Rocchi, che insomma conosce tutta questa tipologia. Carla Rocchi, buongiorno. Buongiorno. Come va? Va bene, grazie. Voi? Che farebbe quel seminarista Carla Rocchi, presidente nazionale dell'EMPA, ricordiamo, Internazionale Protezione Animali. I seminaristi inseguono sogni loro, tutti particolari. E quindi in genere fanno tutto da loro. Io non ci credo a questa di Padre Livio, devo dire. Il gol con il topo non ci ma credo. Figuriamoci, ma poi sono dei cagasotto paurosi, se vedono una mossa. Scappano urlando. Sogni. Scappava, ha visto il topo. Oddio! Appunto, oddio, sulle sottane, sopra la sedia. Oddio, il topo. Quindi figuriamoci se danno un calcio al topo. Ma figurarsi, ma infatti, dai, non è vera. Non è vera questa. Basta, niente, il mio premio Pulitzer, l'intervista al seminarista che ha fatto gol col topo è saltato così alle 6:36 minuti. Vabbè. Oh, però attenzione, insieme a Carla Rocchi, qui abbiamo recuperato una persona che, signori, oggi è il 12 luglio, attenzione, è il 12 luglio, io oggi ho detto, ma chiamiamola in onda, ho guardato Lorenzo Nespoli, ha risposto, sì, ha risposto, tutto bene, non è a casa tranquilla, sì, è a casa tranquilla. Un aggiornamento sulla gravidanza di Aurora? Non sappiamo se ha avuto la figlia, se non l'ha avuta. È nata o non è nata sto padanina? Aurora Lussana è qui! Come stai? Come stai? Sono preoccupatissimo. Come va? Bene, bene. A Cantù ci sono 21 gradi, sta sorgendo sì? Il sole, una meraviglia. Qui di ratti non se ne vedono. Ratti, niente? No, no. Al momento qua nella fascia pedemontana... Cosa ascolti? No, ma aspetta, prima di cosa ascolti? Bambine se ne vedono? No, il termine però nei prossimi giorni, quindi può anche essere che nasca oggi la bimba, non lo so. Magari adesso. No, dogli non ne ho. Vabbè, insomma, se succede qualsiasi cosa tu sei pronta a lasciarci, La valigia è pronta? Sì, tutto pronto, anche i ricamini, c'ho anche la camicina in pizzo di Cantù, c'ho tutto. T'ho a posto, cosa stai facendo ascoltare a questa padanina? E mentre voi parlate del ratto di Roma, io le faccio sentire un po' di Verdi, Sublime Verdi, cos'è che è? La forza del destino. Cos'è che lei, a chi l'hai chiesto? Alla bimba? Guarda, non risponde. No, le fa bene sentire la forza del destino, l'overture di Verdi. Senti qua, questa è musica, mica quella roba lì che ci avevi su te prima che le fa male. Ma dai, era Bob Dylan, però insomma. C'è il mito americano, guarda lì. No, ma non è che c'è il mito americano, sì, però. Vabbè, insomma, siamo con Aurora Lussana, Carla Rocchi, non so se sei capito. Cara Carla, ma tra pochi giorni, entro il 20 se non sbaglio, c'è il termine per la nascita della figlia di Aurora Lussana. Oggi a questo punto dovremo stabilire come si chiama. Carla ha un suggerimento perché ne sono arrivate tante. Non mi permetterei francamente per prima cosa tanti No, permettiamoci. Perché avranno ben scelto, tanti bei nomi. Ma i nostri ascoltatori invece si stanno permettendo da tanto tempo, Padania, Italia, però c'è anche Aisha, c'è chi ha detto un bel nome musulmano magari. Secondo me questa bambina ha già un nome nella mente della sua mamma, del suo papà, e certo lo dicono a noi. Vabbè, vediamo un po'. Apriamo il Parlamento e chiediamoglielo. Allora, apriamo il Parlamento. Aurora, è il momento alle 6:39 minuti in cui vuoi per caso svelare il nome che avreste scelto. Poi dopo sarà la benedizione, quindi la benedizione della mia vita, quindi spero che sarà benedetta, eccola. Benedetta. Vediamo se la provvidenza mi assiste, perché qui io Benedetta Lussana. No, lo so che tu ami i nomi più esotici, però io sono legata radicalmente alla mia identità cristiana occidentale. Cosa vuoi? Sì, siamo una minoranza ormai, Milan. Rispettaci, tolleraci, cosa devo dire? Va bene, dai. Benedetta, bello, Benedetta. Bellissimo. Diamo l'autorizzazione. Va bene, qui anche a 24 mattino diamo l'autorizzazione. Vabbè, ma cosa succederà? Poi non ne parliamo più. Ma cosa succederà nel momento in cui nasce? Noi lo sapremo dopo quanto? Per dare l'annuncio. E ti mando WhatsApp. ma sarai presa a fare altro. Insomma, vabbè. Ho capito, saremo gli ultimi a saperlo da chi? Da chi? Da una, non so, da una rivista. Ma chi? Mamma. Ma oh, vabbè che ormai fa notizia che si riproducano i padani, però voglio dire, insomma... Va bene, dai, benedetta Lussana in Molteni, bene, siamo molto felici. No, veramente sarà benedetta Molteni. Benedetta Molteni in Lussani, sì. I tuoi figlioli portano il tuo cognome? Ho capito, certo, però insomma pensavo di dare più importanza a te che sei qui, ecco, fai un colpo di stato. Va bene, mater semper certa. Esatto. Mater nunca. Esatto, comunque, no, vogliamo veramente parlare seriamente di questa storia dei topi, ma a me ha veramente fatto un po' sorridere, cara Carla Rocchi, però glielo chiedo seriamente, veramente, questi topi bisogna sterminarli? Una volta già gli ho chiesto, Ma io una volta gli ho già risposto, ma comunque niente chieda che lo faccia una seconda volta. Ma perché magari vedendo che la situazione è complicata. La situazione in realtà a Roma le persone di queste cose tutti parlano e pochi capiscono. I topi ci sono sempre stati e nel sottosuolo, sotto, nelle foglie, mangiano tutti i rifiuti, tutti i putridumi, tutte le schifezze che la nostra azienda municipalizzata non raccoglie. Se non ci fossero veramente, che se non ci fossero i topi la città scoppierebbe di epidemia. Quindi i topi sono una salvezza, non è che portano le malattie e le epidemie, tolgono. Questa cosa è risaputa, soltanto che siccome a Roma di qualcosa si deve parlare e qualche problema bisogna inventarselo, visto che quelli più grossi e più importanti né si inventano né si risolvono, non ho nessuna fiducia che accada nulla in questo senso. L'importante è parlare di qualcosa, questo è lo sport cittadino. Oggi sono i topi, oggi tocca. Si parla, fa bene, si prende aria alla gola, alla laringe, quando col caldo fa bene all'apparato vocale. Questo sì, però non è, quindi non c'è, la soluzione sarebbe raccogliere, pulire, non c'è un'altra soluzione, è pulire. Ma lei ha visto a Roma che come stanno le cose? Poi dice in Vaticano i topi non ci sono. Certo, perché la nostra azienda ci municipalizzata non si permette di tenere sporco il Vaticano. Che il Papa fa una telefonata, li fa saltare tutti. Pensavo ci facessero i gol. Siamo di serie B, di serie C. Naturalmente in città non si pulisce. Quindi la soluzione è quella, pulire. No, io spero solo una cosa, che adesso non debba succedere che Virginia Raggi a ogni segnalazione debba correre di qua, di là, di qua, di su, di giù, no? Ci sono i topi e corre il sindaco a salutare i cittadini, vi risolviamo questo. C'è la monnezza là e corre di là. C'è lo sciopero degli autobus e corre di là. Ma no, la cosa più interessante è che per le notizie che avevo quando mi interessavo di questo problema, il Vaticano è pulitissimo, l'azienda municipalizzata corre, e poi il Vaticano, per quello che sapevo io, non era in regola con i pagamenti all'AMA. Noi che paghiamo l'AMA abbiamo la città che fa schifo. Quindi questo è un paradosso meraviglioso che è proprio tipico della nostra città. Fantastico, non so, vorrei sapere da Aurora Lussana, dallo sguardo padano, questa situazione come viene vissuta a Roma. Povera Roma, neanche il peggior nemico di Roma ai tempi dei treni Nerone che scendevano a Roma avrebbe immaginato una sorte tanto infausta per la capitale. No, mi fa sorridere oggi il titolo di un noto quotidiano romano, Il Ratto di Roma, con la lupa che allatta anziché due gemellini, insomma due topastri. C'è un po' di goduria, goduria padana. Insomma, no, vabbè, però hai ragione te, fa sorridere la Raggi che ieri a me sembrava ancora in campagna elettorale. Abbiamo capito da mo' che ci sono sti topi, cosa vuol fare da sindaca più che fare sopralluogo? Dovrebbe cominciare a dare un po' di indicazioni, fare delibere, fare ordinanze, non lo so. Ha detto multe salate per chi sporca. Tra l'altro, posso dire che la politica delle multe è una cosa che non fu tanto le multe. Non è vero, scusa. Ma nessuno le applica. Quando ci hanno insegnato a fare la raccolta differenziata, spinta, sono arrivate di quelle multe che se mettevi lo scontrino, che è carta termica, nel bidone della carta anziché nell'indifferenziata, ti arrivava la multa. Pagavi. Ci hanno rieducato tutti noi qua nel Lombardo-Veneto, non lo so. Io vorrei capire se siamo più avanti noi oppure se troppo indietro Roma. Non io credo che i romani rieducati siano capaci. No, però non so, ti ricordi quella dei mozziconi delle sigarette? Ti ricordi i mozziconi di sigarette? Multa da 300 euro a chi le butta per terra. Poi ci deve essere uno, come dici tu, che va a controllare nella spazzatura, a vedere se c'è lo scontrino, della carta. Poi ci sarà anche un po' il senso umido. Civico, qui ci hanno nominato, là. C'era Maria Teresa d'Austria un tempo. Eccolo qua dove là, io. L'hai nominato. No, nel senso, ma magari il senso nella dominazione civico. Asburgica, sì. C'è anche un percorso storico dei popoli, no? Il senso civico. Carrarocchia, so. Quanto stiamo a senso civico? Ma non è che siamo proprio un granché bene, anche perché ecco, io non ho mai visto un vigile fare una multa in città che non sia per le macchine in doppia fila nelle zone che non... Abbiamo messo la multa per i mozziconi. Avete mai visto un vigile che ferma uno che butta un mozzicone per terra e gli dà 500 euro di multa? Io sono una pedata, non aspetto il vigile. Perché quelli che fumano mi hanno fastidio. Brava Aurora, ecco, brava Aurora, così proprio trattalo così alla padana. Pam! Anche uno per Benedetta. Pim! Uno un po' più piccolino da parte di Benedetta, subito, pam, pam, doppio colpo come il seminarista al topone con cui ha fatto gol. Io non riesco a uscire da questa immagine, il seminarista. E lo so, ma è un sogno, Milan. No, non è, no, è un sogno, ma non è realtà. Io non ce lo vedo, non ce lo vedo neanche io. Eroicamente si spinge. Ma infatti rido perché mi sembra una roba assurda, insomma, però l'idea del topone all'incrocio dei pali, insomma, fa un po' ridere. Vabbè, dobbiamo andare a dare le informazioni sul traffico. Poi voglio chiedere a Aurora Lussana, anzi, come ci dice qualcuno, la razzista Lussana avete invitato, la razzista, ci dovrà dire qualcosa su Fermo, tra poco. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il vostro. Senti Milan, io sento parlare di italiani che sono razzisti, che guardano il colore della pelle. Io credo che gli stupidi ci siano in qualunque nazione, ma gli italiani non sono cattivi e secondo me non sono razzisti. Adesso c'è l'intolleranza per una civiltà diversa, profondamente diversa dalla nostra, e soprattutto il fatto che siano loro a considerarci delle bestie solo perché hanno una religione diversa dalla nostra, noi siamo tutti infedeli. Una morte dispiace sempre, una morte, ma la politica, la società civile non fa niente per evitare queste cose, ci mettono uno contro l'altro. Volevo dire alla signora delusa da Milan che a Radio 24 c'è un gran figo con una gran bella voce, e questo corrisponde al nome di Sebastiano Barisoni. E vabbè, insomma, che dobbiamo fare? Qua stiamo cercando di fare agenzia matrimoniale di Marta Flavi, ve lo ricordate, no? Va bene così. Allora, siamo con Aurora Lussana e Carla Rocchi. Ha detto che ho scoperto sulla stampa, c'è un modello per pulire Roma, poi parliamo di Fermo, eh. Sa qual è Rocchi? Il modello San Francisco. Non so, io dal silenzio deduco che insomma, non, è noto il modello San Francisco, no, Carla Rocchi. Non lo so, cos'è la novità? No, non lo so, neanch'io, però il modello sarebbe San Francisco. Vabbè, vedremo, attenderemo, staremo a vedere se puliscono tutto. Però, insomma, qua abbiamo l'esponente del razzismo più bieco, Aurora Lussana, si sa. Questa accusa borghese si confà proprio ai tuoi modelli culturali o sottoculturali di riferimento. No, però dai, adesso parliamo seriamente. Allora, da alcune testimonianze, Mancini, che rimane in carcere per... Ma stavo guardando adesso sul Fatto Quotidiano qua, che è fotografato con i 5 Stelle. Cosa vuol dire? Eccolo qua. Oltre offre casa alla moglie Amedeo Mancini lo scorso aprile con il consigliere di vabbè, stavo guardando la foto. Vabbè, adesso con un consigliere cosa vorresti dire? No, cioè, no, c'è su una foto che coi 5 non lo so, no? Così guardavo. Sto leggendo i giornali di oggi. Butta le robe lì così. No, allora, da testimoni pare che abbia detto l'ho pigliato bene una volta che è caduto, e secondo altri addirittura ha mimato il gesto della scimmia una volta che Emanuele era a terra, no? Signore. Però scopro sul giornale, non fare così, scopro sul giornale oggi Amedeo Mancini provocato rimane in carcere. Cioè, avete capito, adesso sta passando il messaggio che il provocato è lui. Cioè, c'erano due persone di colore che passeggiavano tranquillamente, uno si sente dare della scimmia e il provocato però è lui. Sì, non è che se a me dicono gallina per strada io... mi tiro proprio dietro di sì. No, questo nel senso, è vero, questo no, è vero, no, la, la reazione è sbagliata, cioè è sbagliata. Sì, sì. No, però, ma non lo so, però posso dirti che in Italia ci si eccita sempre a trovare magari il martire, il povero immigrato, l'italiano cattivo razzista. A me sto ragazzo qua, guarda, più ne leggo, più mi sembra un ragazzo così che ha reagito con il consueto becerume da bar, con un insulto disumano, squallido. I razzisti, scusami, di solito hanno anche una preparazione culturale un po' diversa, cioè il razzismo comunque è una dottrina storico-politica e un pseudoscientifica delirante, finché vuoi, però di solito hanno una sì, su questo sono d'accordo, questo è proprio uno che non ha gli... veramente un ragazzotto che frequenta probabilmente il becerume da bar o della curva più anche più infame, quindi ha tirato fuori questo insulto un po' vigliacco, perché l'insulto è arrivato alla donna, non all'uomo, già questo ti dico mi sembra una roba un po' vigliacca, anche un po' come la prima ipotesi formulata dal suo avvocato, che lui quel termine scimmia l'aveva usato perché l'ha sentito usare dai parlamentari, mi sembra una roba anche quella un po' vigliacca. Calderoli. Non lo so, mi sembra Calderoli. Tutta una storia un po' così all'italiana. Poi vabbè, quando vedi la passerella però della ministra, della Boldrina, così ai funerali, magari ecco, diciamo che questo tentativo di strumentalizzare questa vicenda contro gli pseudo razzisti della destra italiana, ecco, credo che gli porterà no, male. Però sentiamo Rocchi, ragazzi, è morto, non è che hanno fatto una lite leggera, quello è morto. Quindi è morto, che pesa. Come si fa a dire? Poi tutto il resto è contorno, ma questo è morto. No, appunto, poi il provocato è Mancini. L'assassino è alto 2 metri, ragazzi, un vigliacco. La vera componente di questa persona non è che è un razzista, che è un vigliacco. Esatto, sì. No, soprattutto dicono ha provocato, voglio dire, è lui che ha detto l'insulto ed è quello che è morto, è quello che l'ha ricevuto l'insulto, cioè, no? Non so se è chiaro, quindi passeggiava tranquillamente con la moglie, si è sentito insultato ed è pure morto, capito? È un dramma, una lite da strada che è terminata in una tragedia. Però, ripeto, quando poi vedi la strumentalizzazione dell'inverno con la sfilata al funerale, ecco, lì ti viene qualche dubbio che forse c'è stato un tentativo di politicizzare un dramma, una tragedia, una vigliaccata di un italiano, in questo caso, per carità, nei confronti di questo nigeriano. Ecco, la strumentalizzazione politica... Non ti è piaciuta. Ma poi quando tu usi il sigillo di infamia del razzismo, no, tipo una reduzio ad Hitlerum, è per in qualche modo delegittimare chi sull'immigrazione ha delle idee diverse dai filo islamisti, filo no, già ti chiamo xenofilo ultimamente, sì, no? Esatto. Scusami, adesso cosa mi chiami? Xenofili come te. Ah, xenofilo. Va bene, io no, nonostante ciò, Milan, nonostante ciò, auguro... No, è vero, cioè quelli che volevano una società multirazziale, lo sai a cosa ci hanno portato, alla società multirazzista, questo è il dramma. Sì, vabbè. Intanto, cara Carla Rocchi, qui devo finire, mi fanno sapere che a San Francisco c'è l'80% di differenziata e pagano anche i clochard. Non bisogna mica andare a San Francisco, che riciclano, i clochard che riciclano il cartone e l'alluminio, così Filippo da Roma ce lo fa sapere. Va bene, allora io mi devo fermare qui. Cara Aurora, nonostante i tuoi insulti quotidiani, io come tutta la redazione di 24 Mattino ti mandiamo un grande abbraccio. Sono i momenti decisivi questi, sì. Mi raccomando, facci sapere qualcosa, chiamala pure Benedetta, nonostante noi abbiamo dato altri suggerimenti. E cosa si dice in questi casi, Aurora? Ciao. Ciao. Oddio. Oh signore. Ciao. Che dice la mandibù. No, vabbè, ma sì. Vai serena, come direbbe qualcuno. Ciao. Una volta, un seminarista ha fatto gol con un topo. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan, che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. Sono le 7:19 minuti, cari ascoltatori, eccoci, siamo pronti alla lettura dei giornali, siamo qui sempre a 24 Mattino e allora andiamo a vedere che cosa ci propongono questi quotidiani. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo martedì 12 luglio sono le banche in primo piano un po' per tutti i quotidiani. L'apertura del Sole 24 Ore da Berlino a Lisbona, rischio banche europeo, l'inchiesta paese per paese con i sei parametri delle banche europee, la situazione del credito. Per il Corriere della Sera, Renzi, banche, accordo vicino. Repubblica, banche, l'Unione Europea apre all'Italia, aiuti possibili. Per la Stampa, trattativa con l'Unione Europea, ecco chi pagherà per i conti di Monte Paschi Siena. Libero invece un'intervista al premio Nobel per l'economia Stiglitz che dice: vi salvate fuori dall'euro. Per il Messaggero, banche vicina all'intesa con l'Unione Europea. Andiamo invece al Fatto Quotidiano. Metro C, 320 milioni rubati, si indaga sulla grande rapina. Ci si concentra sull'Opera di Roma e l'indagine della Procura. Mentre per Avvenire, l'usuale catastrofe, il rapporto di Save the Children, oltre 3 milioni di bambini uccisi dalla denutrizione ogni anno. Il Giornale invece, voglio partire ancora da qui, mette in primo piano ancora la vicenda di Fermo, colpevole a metà, sentenza politica sul caso di Fermo. Il GIP non conferma l'arresto, ma Mancini rimane in carcere. Per la verità il sottotitolo del Giornale è questo: Mancini, seppur provocato, rimane in carcere. Insomma, scopro dal Giornale che il provocato alla fine è colui che è accusato di omicidio. E va bene, comunque la vicenda del killer di Fermo è questa: resta in carcere appunto perché è stato stabilito che può aggredire altri immigrati. Il giudice per le indagini preliminari Marcello Caporale, nel descrivere la sua personalità, la definisce violenta, aggressiva, prevaricatrice, insofferente alla legge. Rimane dunque in carcere perché potrebbe reiterare il reato, molestare o aggredire altri extracomunitari. Tra l'altro si vengono a sapere nuovi particolari della vicenda che ormai sembra delineata così, poi la ricostruzione precisa ovviamente sarà affidata al tribunale. È un l'insulto quando passano Chinier e Emmanuel, la reazione di Emmanuel, la colluttazione che ne nasce e il pugno fatale di Amedeo Mancini. Ed emerge appunto, scrive il Corriere con Nicola Catenaro a pagina 16, qualche particolare in più, tipo questo: una volta che era a terra Emmanuel, dopo il pugno fatale di Mancini, l'ho pigliato bene, avrebbe esclamato Amedeo Mancini, l'ho steso per terra. E secondo anche altre testimonianze, avrebbe addirittura rifatto il verso della scimmia, mimando le mosse della scimmia a mo' di sberleffo, mentre Emmanuel era già a terra colpito. Questo è almeno quello che si evince da alcune testimonianze secondo il Corriere della Sera. Intanto in carcere lui, anche secondo il suo avvocato, è disperato a suo modo, a parole sue. Come ha detto l'avvocato, si assume la responsabilità morale di quello che è accaduto e dice: voglio dare tutto ciò che ho alla vedova di Emmanuel. Questo è il titolo di pagina 14. Flavia Amabile vuole darlo tutto quel che ha, vuole darle. Amedeo Mancini, l'uomo di 39 anni, accusato di aver ucciso Emmanuel Cirinnandi, a Fermo, atteso oggi per l'udienza di convalida e che, secondo i testimoni, dopo il pugno mortale avrebbe anche esultato, probabilmente senza aver capito cos'era successo. Come lo so pigliato bene, lo so allungato, cioè l'ho steso per terra. Però, ora dice l'avvocato, vuole dare tutti i suoi beni, non sono tantissimi, alla vedova. Questo succede a Fermo e le cronache ancora continuano a occuparne. A proposito di immigrati, però, questa notizia interessante che ho trovato solamente sul Corriere della Sera, pagina 17, è Luigi Ferrarella che lo racconta, e cioè c'è un giudice a Milano, un giudice che si chiama Martini Flamini, giudice donna, che ha deciso, condannando il Ministero dell'Interno e dell'Economia, di rimborsare 5 stranieri perché avevano pagato la tassa sui migranti ed è considerata dal giudice discriminatoria. Vale per il principio la sentenza del Tribunale Civile di Milano, ma pure per il potenziale impatto economico, perché si misurano in centinaia di migliaia, se non in teoria quasi 3 milioni, gli stranieri ad aver pagato la tassa sul permesso di soggiorno e che ora potrebbero fare causa. 80 euro sotto un anno, 100 euro da 1 a 2 anni, 200 euro per i soggiornanti di lungo periodo. Questo era il valore della tassa. Ebbene, questo giudice a Milano ha stabilito che va risarcita la tassa a 5 di queste persone che l'avevano pagata e che hanno fatto ricorso, aprendo la possibilità di nuove cause, numerose cause, perché questa tassa viene considerata discriminatoria. A proposito di tassa, invece, questa l'ho letta, mi sembrava una buttada, poi l'ho riletta meglio, rischia di essere una questione molto molto concreta. Lo racconta Gabriele Beccaria, trovate l'articolo sul Secolo XIX sulla Stampa. I robot, parla dei robot. Sapete che se andiamo verso un mondo di meccanizzazione dove ci saranno i robot che in un futuro non lontano potranno occuparsi di noi, l'esempio viene proprio detto anche così, potranno cambiarci il pannolone oppure potranno anche spararci in fronte, questo dipende da che uso se ne fa. In realtà, scrive la Stampa, stanno già imparando a fare una cosa e l'altra, e quindi è inevitabile che gli interrogativi sulle luci e sulle ombre dei robot si moltiplichino. Ed ecco qui la proposta. Viene dall'Europarlamento, da un'eurodeputata lussemburghese del gruppo Socialisti e Democratici, si chiama Maddie Delvaux, e questa eurodeputata dice: beh, ma se i robot sono delle vere e proprie, come diciamo, persone elettroniche sempre di più, è bene che paghino le tasse, paghino i contributi. Rivediamo la questione la questione previdenziale dei vari paesi, perché si materializzeranno nuove professioni fatte dai robot, scompariranno altre vecchie professioni fatte dagli umani. E allora, se non si ridefinirà tutto, altrimenti si creerebbero delle crescenti disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze e del potere. Insomma, i robot diventano persone, devono avere diritti e doveri, risarcire i danni, pagare le tasse, pagare i contributi. Anche ai robot, questa la chiedo poi a Oscar Giannino, questa me la tengo poi per Oscar. Anche i robot paghino le tasse. non male, ma già, è già arrivato Oscar? No, non lo vedo ancora. Ma questa proprio me la tengo da parte, Paolo Corleone, ricordamela anche tu. Questa la chiediamo a Oscar Giannino. I robot paghino le tasse. Va bene, va bene. Siamo all'articolo che mi fa pensare la giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Ovviamente caffè bollente da appoggiare, anche tè, tisane, oggetti contundenti, coltelli per la marmellata, rasoi, fucili a pompa, appoggiate tutto. Il giudice si prende la pausa e i tre ladri tornano a spasso. Il Giornale racconta con Riccardo Pellicetti la classica storia di burocrazia che poi sfocia in mala giustizia. Succede al tribunale di Bergamo, dove il giudice fa saltare il processo contro tre ladri appena arrestati dai carabinieri per problemi organizzativi sugli orari. Era sabato. Il giudice Donatella Nava lascia l'aula del tribunale alle 12.15, rimanda gli atti riguardanti tre arresti per tentato furto avvenuto la notte precedente al PM Gianluigi Dettori. Poi c'è la domenica di mezzo, insomma, risultato che i termini custodia cautelare scadono il lunedì mattina prima che riaprano le aule del tribunale. Risultato, il sostituto procuratore Dettori non può far altro che liberare tutti e tre i rumeni. Scadenza dei termini di custodia cautelare. È la giustizia, è il garantismo, è la democrazia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Alessandro Milan e te li donghisti due erbast triste sit però, eh? Va bene, li accetto volentieri, 2 euro ovviamente da reinvestire subito, cara ascoltatrice, grazie. mandate le vostre sigle al 349-238-6666. Allora, siamo qui a parlare di politica. C'è l'intervista di Renzi al Corriere della Sera. Ieri era in sala Buzzati alla sede del Corriere della Sera, intervistato da Beppe Severgnini, e l'intervista è tutta riportata a pagina 2-3 del Corriere della Sera. Parla di politica, dice no allo spacchettamento per il referendum. Tra poco vi spiegherò di cosa si tratta, perché certamente so che se entrate in un bar non è proprio il primissimo argomento che viene affrontato dagli avventori e dai gestori dei bar, ristoranti, tra amici, in ufficio, lo spacchettamento del referendum. Magari vi occupate più di tasse, lavoro, futuro, preoccupazioni, le vacanze, il calcio, e poi arriva lo spacchettamento del referendum. Però c'è anche questo tema. Non ci sarà lo spacchettamento del referendum, a mio giudizio non sta in piedi, dice Renzi. Certo, sarebbe più semplice rispondere a una serie di quesiti del tipo: volete voi ridurre il numero dei parlamentari? Però in ballo c'è la Costituzione, la maggioranza dei giuristi dice che non è possibile fare un referendum à la carte. E poi alla Renzi risponde: a Natale si spacchettano i regali. Insomma, deciderà chi è deputato a decidere. Per me la domanda è molto semplice: volete continuare con questo Parlamento o cambiare? Se vuoi cambiare, voti sì. Se non vuoi, voti no. E alla domanda se lei perdesse dove va, tutti mi dicono che personalizzo il referendum. Ora non apro più bocca. Ecco, Renzi ora risponde così: non apro più bocca e non dico più se perdo me ne vado. E poi sulla questione delle banche, questa sicuramente è più centrale. A mio giudizio il problema è in Europa, non solo le banche italiane, dice Renzi. La questione del credito riguarda molti istituti del continente. Dopodiché forse bisognava fare in Italia quello che fece la Merkel, che mise 247 miliardi di euro nelle banche tedesche. Ma ora non si può più fare. Valutazioni politiche dei governi di allora. Ora le regole sono cambiate, risponde Renzi. Oggi noi assicuriamo la tranquillità. Vogliamo che risparmiatori e correntisti siano al sicuro. E poi parla di tante altre cose. Dice: il mio successore non verrà dal Movimento 5 Stelle. Questo è quello che pensa Renzi. Parla di Trump e Hillary Clinton. Ce n'è anche per la famosa frase "stai sereno", pentito di quel hashtag, cioè l'ha scritto su Twitter, "stai sereno", riferito a Enrico Letta. "Ci credevo davvero", risponde Renzi. "Sono stato 2 mesi a cercare di convincere l'allora premier. Io intanto pensavo solo a Firenze." Il premier aveva la seguente situazione: il tavolo delle riforme fermo, l'articolo 18 un tabù, avevano promesso di togliere la tassa sulla prima casa, ma in realtà le hanno cambiato solo il nome. Insomma, era fermo. Certo, stai sereno, ora non riesco più a dirlo a nessuno. Lo stesso Renzi lo riconosce. Va bene, Matteo Renzi, l'intervista sul Corriere della Sera. Chi dice no prima di tutti è Massimo D'Alema, che racconta il Fatto Quotidiano, ha cominciato la sua personale campagna per il no. Luca De Carolis racconta sul Fatto a pagina 3 che D'Alema ieri era a Bari: votiamo no o l'Italia finirà ai 5 Stelle. Questo è il ragionamento di D'Alema. Il combinato disposto di riforma costituzionale e legge elettorale è un obbrobrio, rischia di consegnare l'Italia ai 5 Stelle. Avete ragionato intanto sullo spacchettamento? Eccolo qua, è una proposta dei radicali per spacchettare il referendum costituzionale. Per la verità anche l'iniziativa è nata, oltre che da Riccardo Maggi dei radicali, anche dal vice ministro Riccardo Nencini. Cioè l'idea è quella di spacchettare il quesito invece di mettere un sì o no complessivo alla riforma. I radicali prevedono di spacchettarlo in 5 blocchi, uno sul bicameralismo, uno sulla composizione del Senato, uno sull'elezione dei giudici della consulta, uno sul titolo quinto e rapporti Stato-Regioni, uno sull'istituto referendario, cioè spacchettare e fare 5 quesiti. Ma ci vogliono 500.000 firme da raccogliere e questa via ormai è impervia, neanche è praticata, e allora c'è la ipotesi B, quella di 126 firme tra deputati o 64 tra senatori da raccogliere. ma al momento, fa sapere il Corriere della Sera, non decolla questa raccolta. L'iniziativa ha fatto firmare per il momento 30 deputati, uno soltanto del PD, Franco Monaco, e quindi sono lontane le 126 firme. E sono lontane, attenzione, il termine ultimo è entro giovedì, ecco, questo è importante da chiarire, quindi mancano due giorni, ora ci si prova con i senatori, ne servono appunto 64, però vedremo, questa è la proposta di spacchettamento, ma entro giovedì. Oh, invece, se la politica si interroga su questo, attenzione, la stampa ormai la conosciamo un po', conosciamo i meccanismi della stampa, adesso funziona così. A Roma è partita la caccia al topo. E attenzione, non è finita, non è finita. Leggete il Messaggero. Dopo i topi, l'emergenza può essere rischio serpenti e l'emergenza blatte sugli autobus. Io lo so, la stampa italiana, quanto ci richiamerà su questa. È partita la caccia dopo i topi, che sono tanti sicuramente a Roma. Adesso ci sarà la caccia a chi vedrà i serpenti. Vedrete, fidatevi, se non nasceranno le segnalazioni, le foto. Ho visto la biscia, ho visto il pitone, le anaconde per Roma, le blatte, i baccherozzi, e chi lo vede più grosso, chi lo posta. Insomma, nasceranno i siti, nasceranno le pagine Facebook. È così. Però il problema c'è. Ed è serio. Virginia Raggi, dopo la segnalazione di questo video virale a Torbella Monaca di bambini che giocano contando i topi, è andata lì nel quartiere. E anche qui spero che non debba nascere lo sport delle Olimpiadi della Raggi, che deve andare dovunque ci sia una segnalazione di problema, perché così, se no, le suggerisco 50 sosia da mandare in giro per Roma, così per risolvere tutte le questioni a stretto giro di posta. Comunque, dopo i topi, rischio serpenti, questo è il titolo di Il Messaggero. Non c'è giornale che non dedichi una pagina, se non due, al tema dei topi a Roma. Un po' più grave, un po' più seria, un po' più vergognosa forse, è l'inchiesta che riguarda la Metro C, la grande truffa della Metro C, così titola Il Fatto Quotidiano a pagina 6, ne parla anche il Corriere della Sera, anche gli altri giornali. La grande truffa è questa: sarebbero stati dati ai costruttori della Metro C 320 milioni di euro per lavori mai finiti, e 320 milioni che non erano dovuti. Sentite Ilaria Sacchettoni che racconta sul Corriere a pagina 7. Nel 2014, seduti al tavolo del Ministero delle Infrastrutture, il suo ex potentissimo direttore Ercole Incalza, arrestato per corruzione dei magistrati fiorentini, l'ex assessore ai lavori pubblici del Campidoglio Guido Improta, sotto la giunta Marino, e il Consiglio di Amministrazione di Roma Metropolitana al completo, si sarebbero accordati per corrispondere ai costruttori della Metro C soldi non dovuti a titolo di risarcimento per l'allungamento dei tempi e ritardi della pubblica amministrazione, tutte penalità non dovute sulle quali i costruttori avevano anzi rinunciato formalmente. Eppure sono state assegnate alle imprese 230 milioni di euro in più e una tranche di 90 milioni tombali pagati sull'unghia. Fanno 320 milioni. Indagato l'ex assessore di Marino Improta, indagato appunto Incalza, sono 13 gli indagati. Secondo il PM Erminio Ameglio, che coordina l'inchiesta con l'aggiunto Paolo Iero, le considerevoli somme di 230 milioni e di 90 milioni di importo non spettavano affatto al consorzio dei costruttori, eppure sono state date in una città che ha miliardi di debiti. E va bene. No, stavo dicendo a proposito di topi. No, no, no. È il momento però di Mauro Meazza. Buongiorno, Maurino. Buongiorno. Stavo cercando un'altra notizia da... Ma insomma, sono rimasti, vediamo, sì, no, topi, però rifiuti, tasse. Certo, comodo su questo aspetto zoologico, quindi perché non so. Vabbè, perché se... non... Ma è il tuo momento quark, non so, l'amico degli so. Animali. Blatte, baccherozzi, no. Serpenti. Sì, sì, hai preso, devo dire. Ecco, guarda. Scusa, l'impazzimento, le vacanze si avvicinano. Ringraziamo anche Paolo che ha deciso di celebrare con il serpente corallo. Vabbè, sì, alcuni sì, capiranno, altri meno. Senti, veniamo a cose più serie. Le banche. Ad esempio, intanto. Sì, adesso mi verrebbe da fare anche a me dei paragoni, perché anche lì, insomma, ci sono delle cose, no, nei bilanci delle banche ci sono delle cose pericolose, come appunto topi, blab, eccetera. Allora, leoni, squali, pesci. Allora, cani. Articolo da meditazione, oggi pagina 3, Luca Davi Moria Longo, su le debolezze strutturali delle banche in tutta Europa. Questo seriamente, lasciamo da parte topi, serpenti e quant'altro, articolo da meditazione nella pagina 3. E poi invece in pagina 2, come vedi, questa complicata trattativa con l'Unione Europea per capire come bisogna interpretare questa BRRD, che già, se tu la leggi tutta insieme, fa capire che ci abbiamo dei problemi con le banche. Seriamente parlando, si può o non si può accettare l'aiuto, una garanzia pubblica, un aiuto pubblico a certe condizioni? Allora, secondo la ricostruzione presentiamo oggi in pagina 2, la cosa è possibile. Adesso bisogna mettersi d'accordo sull'interpretazione, appunto, anche in sede europea. Ma trovi tutto sul Sole 24 Ore di oggi, ricordati che oggi è martedì. Condominio! Esattamente, che... ma ne parliamo tra un attimo. Ricordi che oggi è martedì, come tutti i martedì, l'economia per la famiglia. Certo. Così sei più preparato in non venire a cercarmi dal bar, recati in edicola e ritira insieme a Sole 24 Ore il volume dell'economia per la famiglia. Oh, ti voglio anche dire che tra le tante cose che oggi trovi su Sole 24 Ore, vedrai anche che partirà la chiamata diretta di alcuni professori con il nuovo anno scolastico. Saranno 90.000, dovevano essere di più, però c'è un po' di maretta da parte dei presidi, perché pare che questa chiamata diretta debba avvenire su criteri quasi automatici, quindi i presidi dicono vabbè, e quindi noi che ci stiamo a fare con la chiamata diretta, e forse non hanno tutti i torti. Ti spieghiamo la vicenda nelle pagine di Imprese e Territori. Poi tu sei a posto con le rate di Equitalia, stai pagando. Spero di sì. Ecco. Sappi che però il governo sta pensando a riallargare il Parlamento, scusami, sta pensando a riaprire la possibilità di rateazione. Infine, hai presente Marcelo Bielsa? Come no, quello che è l'allenatore, ex allenatore della Lazio, in 15 giorni. No, forse ancora allenatore, sai che è perché nelle pagine di Norme e Tributi, insieme al condominio, che tu devi leggere, si narra appunto di questa vicenda. Sai che in Italia adesso per dimettersi tu devi avere il PIN dell'INPS e seguire una procedura online. Bielsa è obbligato a allenare per la burocrazia italiana. Il signor Bielsa ha mandato sì un'email, però non risulta avere messo il PIN. È così. Dura l'ex, sed l'ex. Senti, per parlare in inglese. Però a proposito di inglese e tedesco, caro Mauro, ma com'è che vai in giro a fare autografi? Guarda che io so tutto. Ci scrive il papà di Vittoria. Vittoria era quella bambina che nei compiti all'elementare aveva inserito Mauro Meazza tra i personaggi famosi con le doppie. E ci fa sapere che è riuscita a farsi fare un autografo che riproduce in foto e che io ora ti girerò dal suo trafficante preferito, e cioè Mauro Meazza. Sono lusingato, io ne colgo l'occasione per salutare Vittoria, ma anche i suoi genitori che, come vedi, però la educano anche a un ascolto di Radio 24 e persino l'ascolto della segna stampa di Alessandro Milan. Su questo, guarda, io mi fermerei e per uscire dall'imbarazzo anche questa mattina lancerei il traffico. Ma quando sei stronzo, serpente, corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Alessandro mio, alla catanzarese, Alessandro mio, che va mate dico, che va mate dico io. Quando lei è giornale, Alessandro mio, ma ti ricordi, con l'occhio te veo vio e con l'altro te coglioneo. Allora, eccoci qui, cari ascoltatori, dobbiamo raccontare quello che succede in Gran Bretagna, dove domani ci sarà un nuovo primo ministro, donna, dopo Margaret Thatcher, infatti è già soprannominata la nuova Thatcher, un pochino ci assomiglia anche fisicamente, vagamente la ricorda, si tratta dell'attuale ministro dell'interno Theresa May, favorita della contesa, e domani diventerà 76esimo primo ministro della storia britannica, racconta Repubblica, pagina 2-3. Repubblica dedica l'apertura all'interno del giornale a questa vicenda. Dopo la Brexit, in pratica si è ritirata la sua ultima avversaria, Andrea Leadsom, ministro dell'energia, che abbandona a sorpresa la corsa. Tra l'altro ha fatto anche un'intervista un po' imbarazzante, perché ha dichiarato, la Leadsom, la May ha nipoti e parenti, ma io ho dei figli, perciò capisco meglio le esigenze del paese. Ha fatto questa dichiarazione pensando, insomma, di dire una cosa molto saggia, eccetera. Peccato che però Theresa May, diciamo, avrebbe voluto dei figli, non ha potuto avere dei figli. Questa cosa ovviamente ha suscitato nella sua vita, immagino, anche molto dispiacere, e però si è trasformata questa dichiarazione della Leadsom, della sua rivale, in una gaffa in realtà. Insomma, la Leadsom si ritira e rimane Theresa May. Domani sarà nuovo primo ministro in Gran Bretagna. Il 10 Downing Street sostituisce Cameron, che è stato rottamato, si è autorottamato dopo il referendum sulla Brexit. Ora dobbiamo fare tre cose, dice Theresa May, leggo dall'articolo di Repubblica a pagina 2. La Brexit, e sarà un successo perché dovremo unire un paese diviso dal referendum, costruire insieme una Gran Bretagna migliore per tutti. Ovviamente al momento non spiega in che modo avverrà l'uscita dall'Unione Europea, nemmeno darà i tempi, non ha dato i tempi, non si sa quando invocherà la famoso articolo 50, e cioè la richiesta all'Europa della cosiddetta secessione. Nessun accenna come condurrà il negoziato con l'Unione Europea, inclusa la questione dei diritti di 3 milioni di cittadini europei, tra questi anche 500.000 di italiani residenti nel Regno Unito. Insomma, in questo momento non svela molte carte, per ora si sa che succederà a Cameron domani. Venendo invece alle questioni ancora italiane, c'è questa inchiesta che riguarda il calcio, o meglio tangenzialmente coinvolge il calcio, il tifo juventino, ed è un'inchiesta che però allargandosi coinvolge l'Ndrangheta. Insomma, è un'inchiesta abbastanza clamorosa di cui hanno riportato i giornali di giorni scorsi. Capi ultra juventini complici dei clan, dirigenti della società ascoltati in procura. È una storia del business dei biglietti, i cosiddetti bagarini, che sarebbero biglietti della Juve che sono finiti in mano all'Ndrangheta. Questa è l'accusa inchiesta di Torino. E La Stampa ne scrive, così come Repubblica, a pagina 16, sfilata di dirigenti della Juve in procura nell'ambito di questa inchiesta che intreccia ultra e malavita organizzata. Ancora ieri ne sono stati ascoltati due in veste di testimoni per spiegare le relazioni e gli interessi comuni ai due mondi. Sono al centro dell'ultima operazione antimafia della direzione distrettuale del Piemonte. È uno scenario preoccupante quello che emerge dalle indagini. Alti esponenti di una importantissima società calcistica, la Juventus, consentono di fatto un bagarinaggio abituale e diffuso come forma di compromesso con alcuni esponenti del tifo ultra. Questa è l'accusa che c'è sui giornali. Va bene, qui siamo a raccontare quasi in chiusura che è tornato in tribunale Umberto Bossi, ma soprattutto Renzo, il Trota. Il Trota, per la vicenda della questione dei conti della Lega, e il Trota ha detto, lo annuncio anche sul mio profilo Facebook, in questo momento siamo in diretta video, il Trota ha detto testuale: ho appreso della mia laurea in Albania da questa indagine, escludo categoricamente di aver mai frequentato l'università. Bene, allora è proprio la laurea sua insaputa, è fantastico, tutto ciò è fantastico. Chi non ne ha 3 o 4 o 5 di laurea proprio insaputa. Questo succede. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ogni tanto ci ritornano questa storia delle mance. Una pagina della Stampa, Marco Moretti, per raccontare che cos'è la mancia nel mondo. È gratifica o corruzione? Il senso del mondo per la mancia. Ma chi se ne frega?